Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Parlare di errore umano è corretto, ma è assolutamente riduttivo. In questo modo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha parlato il procuratore di Trani, parla di errore umano, dice parlare di errore umano, scusate, è riduttivo, nel senso che è chiaro che questo disastro ferroviario in Puglia sicuramente dipende da un errore compiuto da alcune persone, infatti per il momento sono indagati due capistazioni, che però insomma l'inchiesta punta più in alto ad altre responsabilità. Appunto si sta indagando anche su un organo periferico del Ministero dei Trasporti. La ricerca delle cause comunque di questo disastro in Puglia sta evidenziando due elementi principalmente, cioè appunto da una parte, come ha detto anche il procuratore, l'errore umano, però dall'altra c'è anche questa forte carenza di strumenti tecnologici atti ad evitare proprio la fallibilità degli esseri umani. Di questo parleremo, ne abbiamo parlato anche in questi giorni naturalmente, c'è stato anche l'intervento del capo dell'anticorruzione in Italia, Cantone, che ha detto una cosa abbastanza grave, anche se poi ha fatto una precisazione, cioè ha detto questa cosa è anche da collegare alla corruzione, nel senso che la corruzione impedisce in Italia di fare le infrastrutture e non che ci sia un collegamento però diretto proprio con questa vicenda in particolare. Parleremo di questo, i vostri commenti naturalmente sono sempre molto ben accolti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp e per gli SMS, così come anche potete scrivere a proposito della polemica sui funerali del boss dei boss Provenzano, che è morto ieri, 83 anni. Adesso c'è appunto questa polemica in corso tra il questore, che ha vietato i funerali in pubblico, ha detto insomma, nel senso, dice una preghiera non si nega, però fateli in privato, ha detto ai familiari, per questioni di ordine pubblico, e c'è però il vescovo, l'arcivescovo di Corleone, il paese di Provenzano, che ha detto no, noi insomma una preghiera la faremo e vediamo, probabilmente si parla anche di un piccolo rito religioso. Qualcuno può dire la Chiesa non dà le stesse opportunità a tutti, per esempio si può ricordare il caso di Welby o di altri che sono morti diciamo con la dolce morte, con l'eutanasia, che a un certo punto hanno deciso di morire perché non resistevano più insomma alle sofferenze. Molti altri temi naturalmente con Effetto Notte. Adesso vi faccio un quadro della giornata, voi allora fate le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire sempre senza indugio, oppure al numero 349-238-6666, che è quello per i WhatsApp e per gli SMS. Allora sentiamo com'è andata questa giornata. Il disastro ferroviario in Puglia. Il presidente Mattarella a Bari rende omaggio alle vittime, incontra i familiari, indagati due capistazione. Parlare di errore umano è corretto ma riduttivo, dice il procuratore di Trani, e accertamenti anche su un organo periferico del ministero. Il capo dell'anticorruzione Cantone accusa anche la corruzione impedisce di fare le infrastrutture. La morte di Provenzano, il boss verrà cremato, polemica sui funerali, niente corteo, dice il questore. Movimento 5 Stelle a Roma, Roberta Lombardi lascia il mini direttorio, gelo della sindaca Raggi che dice via dallo staff, io non ne so nulla. Emergenza povertà mai così grave dal 2005, alla Camera ha approvato l'emendamento del PD che prevede un reddito di inclusione. Sparò in tribunale a Milano, ergastolo per Giardiello, l'imprenditore condannato rivela la pistola era lì da 3 mesi. Ciclismo, tour dei colpi di scena, Froome cade, resta a piedi ma non perde la maglia gialla. E per il nuoto agli europei Martina Grimaldi conquista l'oro nei 25 chilometri. Partiamo quindi dagli aggiornamenti sulla tragedia ferroviaria della Puglia nelle campagne tra Andria e Corato. Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio a Bari alle vittime, ha incontrato le loro famiglie, alcuni dei feriti, e ha assicurato, vi prometto che sarà fatta giustizia e che andremo fino in fondo. E appunto per quanto riguarda l'inchiesta, informazioni di garanzia sono state notificate dalla Procura di Trani ai capistazione di Andria e Corato, Vito Piccareta e Alessio Porcelli, due soli indagati nell'indagine per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Ma la Procura sta procedendo con accertamenti anche su un organo periferico del Ministero dei Trasporti. E infatti il procuratore di Trani oggi, come avete sentito, ha detto che parlare di errore umano è riduttivo perché evidentemente ci sono anche altre responsabilità, e tra poco ne parleremo. E c'è da segnalare anche che il sindacato Orsa ha comunicato all'autorità di garanzia per gli scioperi la riduzione a 2 ore rispetto alle 4 annunciate, quindi dalle 14 alle 16 dello sciopero nazionale proclamato per la giornata di domani nei settori del trasporto ferroviario, pubblico, locale e merci, accogliendo così l'appello formulato oggi dal Garante a rendere quanto più possibile simbolica l'astensione, quindi non 4 ore ma 2 ore. Lo sciopero fa seguito appunto a questo incidente ferroviario del 12 luglio in Puglia. Sullo scontro dei treni è intervenuto anche il capo dell'anticorruzione, Cantone, che accusa l'incidente frutto anche della corruzione che impedisce di fare le infrastrutture. Rivolge un pensiero commosso alle vittime del disastro ferroviario in Puglia il presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone. Un disastro, dice, aprendo la relazione annuale dell'ANAC, collegato anche al fenomeno della corruzione che impedisce di fare le infrastrutture. L'incidente è probabilmente frutto di un errore umano, lo accerterà la magistratura, ma è certamente frutto e conseguenza di un problema atavico del nostro paese, che è la difficoltà di fare le infrastrutture. E non è un caso che il report di Cantone si soffermi sul Mezzogiorno, dove anche a causa di lunghi e complessi contenziosi, sottolinea, molte opere si sono arenate. Il piano anticorruzione delle amministrazioni, denuncia poi il numero uno dell'ANAC, è rimasto sostanzialmente un pezzo di carta. E a proposito dei ritardi per il raddoppio del binario in Puglia, all'assemblea dell'ANCE il ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio ha puntato il dito contro i tempi dell'Unione Europea. Se per 4 anni una regione deve discutere con Bruxelles se il progetto va bene o va male, è evidente che le cose non funzionano. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la morte di Provenzano, il boss verrà cremato, è la prima volta, questa è una storia della mafia, polemica intanto sui funerali, niente corteo, dice il questore, per questioni di ordine pubblico, ma Monsignore Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, chiarisce: il cappellano del cimitero di Corleone o un altro sacerdote benedirà il feretro e ci sarà un momento di preghiera, una preghiera non si può negare a nessuno, dice. Poi nel corso di Effetto Notte approfondiremo ulteriormente questo argomento. Voi su questo, come sugli altri temi, potete inviare le vostre riflessioni sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666. E tocca parlare anche dell'emergenza povertà, perché secondo gli ultimi dati Istat oltre 4 milioni e mezzo di persone in Italia vivono ormai in povertà assoluta, il numero più alto dal 2005. Mai così tanti poveri in Italia, è dal 2005 che non si registrava un numero così alto, 4 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta, certifica l'Istat, e cioè senza le risorse necessarie per un'esistenza dignitosa, persone che devono rinunciare anche ai beni essenziali e che vivono in una condizione di esclusione sociale, 4 milioni e mezzo equivalenti a 1,5 milioni di famiglie. Quelli più colpiti sono i nuclei numerosi con più di 4 componenti, con stranieri, e le condizioni peggiori si registrano al sud, ma è in aumento la povertà al nord, al centro e nelle grandi città. Il 7,6% dei residenti nel 2015 è considerato povero, rispetto al 6,8% del 2014. Altro fenomeno che emerge dal rapporto è la crescita delle povertà nelle fasce dei più giovani. Le difficoltà economiche sono triplicate per chi ha meno di 35 anni negli ultimi 10 anni, mentre sono rimaste stabili tra chi ha più di 65. Preoccupa anche la condizione dei minorenni, oltre 1 milione quelli che vivono in povertà assoluta, 1 su 10. Sandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E proprio oggi la Camera ha approvato il disegno di legge del Governo che introduce una misura nazionale di carattere universale per il contrasto alla povertà, denominata reddito di inclusione. Il provvedimento ora però deve passare al Senato, ma dalle opposizioni arrivano critiche su questo provvedimento. Restiamo sulla politica. A Roma c'è tensione, Roberta Lombardi lascia il direttorio, il mini direttorio del Movimento 5 Stelle, non ne so nulla, risponde la Raggi. Che le due non si fossero mai troppo sopportate era cosa nota, ma adesso il distacco è totale. La deputata Roberta Lombardi lascia il mini direttorio capitolino dopo i contrasti con Virginia Raggi. Il sindaco nega, non ne so nulla, dice. Nessuna lite, spiega poi Roberta Lombardi su Facebook. Darò una mano a Raggi. A smentire anche Carla Ruocco del direttorio 5 Stelle. Non ci sono contrasti. È importante che parta l'organizzazione di Italia 5 Stelle e Roberta Lombardi rappresenta un punto fondamentale per far partire questa organizzazione. Ma intanto a rischio potrebbe esserci l'intero mini direttorio. C'è poi la gaffe dell'assessore all'ambiente di Roma, Paola Muraro, per la quale il traffico è colpa dei pedoni indisciplinati. A Roma spassano i pedoni in mezzo al traffico, non so se voi vedete, e si crea l'ingorgo, perché uno sta guidando, questa cosa succede a me. Altra questione invece investe Scelta Civica. Il vice ministro all'economia Enrico Zanetti lascia il partito insieme ad altri 3 deputati, sconfessato dai suoi perché voleva far entrare Dennis Verdini in Scelta Civica e quindi nella maggioranza di governo. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E oggi la Presidente della Camera Boldrini ha presentato la Sala delle Donne a Montecitorio. Certo, in questa sala non ci sono tutte le donne importanti, autorevoli della nostra Repubblica, ma ci sono le prime che hanno svolto dei ruoli istituzionali. Almeno loro, dico, devono essere note ai nostri giovani, alle nostre ragazze, almeno loro, perché hanno dato tanto al nostro paese. E poi ci sono 3 specchi, perché non avevo le foto. Non avevo le foto per la prima Presidente del Consiglio, per la prima Presidente del Senato della Repubblica, allora abbiamo messo degli specchi a dire che ogni ragazza che entra in questa istituzione, guardandosi, può pensare: ma se io studierò, se io mi impegnerò, se io avrò fiducia in me, ebbene anch'io potrò farcela. E adesso spostiamoci invece all'estero, al via il processo dopo Brexit, con il passaggio del testimone tra il dimissionario Cameron e la nuova prima ministra conservatrice formalmente investita a Buckingham Palace dalla regina, cioè Theresa May, e squadra ufficiale di governo presentata. Dopo il referendum affrontiamo un tempo di grande cambiamento nazionale per un nuovo ruolo audace e positivo fuori dall'Unione Europea, con un governo che lavorerà per la giustizia sociale e per tutti i cittadini britannici, non per alcuni privilegiati. Queste le prime parole di Theresa May davanti al numero 10 di Downing Street. La May ha subito reso nota la lista della sua squadra di governo. Philip Hammond, già ministro degli esteri di Cameron, è il nuovo cancelliere dello scacchiere al posto di George Osborne. Michael Fallon alla difesa e Amber Rudd passa invece dall'energia all'interno, prendendo il posto della stessa May. Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra, nonché paladino della campagna per la Brexit, ministro degli esteri, e il Brexiter Liam Fox al commercio internazionale, mentre arriva anche il nome del nuovo ministro per la Brexit, David Davis, il 67enne Tory, da tempo all'opposizione nel partito e sostenitore del Leave al referendum. E Theresa May ha chiesto tempo per l'uscita dall'Unione, preannunciando che non chiederà l'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona prima di fine anno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Stati Uniti adesso. Donald Trump, il candidato repubblicano per la Casa Bianca, ha scelto come vice il governatore dell'Indiana Mike Pence. Lo riferiscono diversi media americani, tra cui il New York Times e la CNN. L'annuncio ufficiale è atteso per domani mattina negli Stati Uniti. E adesso questo appello dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 2015 oltre 300.000 donne nel mondo sono morte di parto, 300.000 donne nel 2015, e una su 3 ha subito qualche forma di violenza. Bastano questi numeri, ha spiegato la vice direttrice dell'OMS, Flavia Bustreo, durante un incontro con i giornalisti a Roma, per dare la dimensione della sfida globale, dice, per i diritti delle donne, di cui l'Italia, approfittando della guida del prossimo G7, l'anno prossimo potrebbe farsi paladina. La cronaca: il primario di pediatria dell'ospedale di Legnano, in provincia di Milano, Alberto Flores d'Arcais, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia ai domiciliari con l'accusa di atti sessuali con minori. Le indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, vicino Varese, sono state condotte dai carabinieri di Legnano. E poi il caso di Giuseppe Uva: prime indiscrezioni sulle motivazioni della sentenza con la quale i giudici della Corte d'Assise di Varese hanno assolto 6 poliziotti e 2 carabinieri dall'accusa di omicidio preterintenzionale e altri reati nei confronti dell'operaio morto nel giugno del 2008 dopo essere stato portato in caserma. I giudici avrebbero ritenuto l'insussistenza di atti diretti a percuotere o a ledere Giuseppe Uva da parte delle forze dell'ordine. Parliamo di salute. Negli ospedali italiani si fuma troppo, lo affermano l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e la Società Italiana di Tabaccologia, che hanno inviato una comunicazione ai direttori amministrativi dei maggiori ospedali italiani per sollecitare con la massima urgenza i delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumare, visto che gli ospedali non solo sono luoghi di cura, dichiarano i presidenti dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e la Società Italiana di Tabaccologia, gli ospedali sono anche luoghi elettivi di promozione della salute, perciò i sanitari diano per primi l'esempio non fumando e sostenendo il rispetto delle norme antifumo. E siamo allo sport. Doping, minacce all'allenatore di Sfarzi, Donati. La Procura di Roma apre un'inchiesta, ha aperto un fascicolo al momento senza indagati e senza ipotesi di reato in merito a queste minacce denunciate da Sandro Donati. Già in parte ne aveva parlato qui a Effetto Notte Donati. Sapete che c'è la sospensione del marciatore altoatesino Schwarzer per doping. Donati dice: hanno manipolato le provette, qualcosa contro di noi. Qui non parliamo di una federazione internazionale specchiata, ma di una federazione piombata negli scandali proprio per maneggi sul doping, e quindi basterebbe questo per porre molta cautela, e credo dall'altra parte ci sia una persona come me che ha sacrificato la vita e non mi sono mai arricchito, anzi sono stato emarginato totalmente, impedito nella mia attività di allenatore, ecco, a garantire. Allora io ho chiesto oggi e lo ribadisco ancora che la WADA non può assistere passivamente, deve intervenire e promuovere una indagine con assoluta urgenza. E poi il ciclismo Tour de France, tappa molto movimentata quella di oggi. Nel giorno della festa della Repubblica i francesi cercano di buttare giù il re, ma Chris Froome, il signore del Tour, resiste anche per intervento della giuria. Succede di tutto oggi al Tour de France, succede il finimondo. Nella tappa del Ventoux, vinto dal belga Thomas De Gendt, manca circa un chilometro al traguardo quando Richie Porte, Bauke Mollema e la maglia gialla Froome, che con un attacco a 4 km dal traguardo aveva staccato tutti, compreso Nairo Quintana, finiscono contro una moto della TV che inchioda all'improvviso per evitare uno spettatore. La bici di Froome si rompe e il britannico in un primo momento è costretto a proseguire a piedi. Poi ne riceve una di riserva dal cambio a ruote, ma non funziona e deve attendere quella dell'ammiraglia mentre gli inseguitori lo riprendono e lo superano. La maglia gialla dovrebbe andare al britannico Adam Yates, ma attorno alle 18:10 arriva l'intervento della giuria che accredita a Froome i distacchi maturati al momento dell'incidente. Il britannico resta così in maglia gialla e accresce il proprio divario dagli avversari. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Mont Ventoux. Bene, questo è il riassunto della giornata. Adesso, dopo questa pausa, per aggiornare chi sta viaggiando, cominceremo a approfondire gli argomenti con i vari ospiti. Intanto, per i vostri messaggi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, lì per voi, oppure il numero per WhatsApp e SMS che è 349-238-6666. Vari temi li avete sentiti. Federico da Firenze dice sul disastro ferroviario: evidentemente il disastro ferroviario di Viareggio di qualche anno fa, vi ricordate, non è servito ad evitare ulteriori morti. Fino a quando dovremo avere paura di salire su un treno? E poi invece molti si chiedono sulla polemica dei funerali di Provenzano. Qualcuno dice: quanti soldi prende il vescovo, il cappellano, per benedire Provenzano? Poi Clotilde scrive: non mi stupisce la presa di posizione del vescovo di Corleone, i mafiosi hanno sempre avuto assistenza religiosa, inchini eccetera, evidentemente è più grave la dolce morte, cioè l'eutanasia, dice, delle mattanze e dei bambini sciolti nell'acido. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E avete sentito quindi il riassunto della giornata con le notizie principali. Adesso cominceremo a scendere nel cuore di alcuni argomenti in particolare con gli ospiti, anche attraverso i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio scrive Simone: e la corruzione che secondo Cantone rallenta i lavori e gli appalti, lo ha detto chiaramente oggi, si attende da anni l'appalto per il miglioramento del servizio. Poi Luciano dice: bisogna aspettare sempre delle disgrazie per cambiare, per migliorare. Non è giusto, ma è umano, la cosa importante è non dimenticare mai. E quindi su vari temi vedo anche ancora qualcuno che scrive sui funerali di Provenzano. Adesso poi ne parleremo dopo questo primo argomento, torneremo adesso sul disastro ferroviario. E poi invece su eccolo qui, anche questo messaggio di Ilaria che dice: non credo che possa essersi pentito Provenzano Zubinnu, dato che da anni era in stato di incoscienza e nonostante ciò sottoposto al 41 bis, tuttavia pur non credente penso che da morti anche i mostri meritino un minimo di pietà umana o religiosa, scrive Ilaria. Quindi continuate con le vostre riflessioni. Intanto vi ricordo, se avete acceso adesso e non puntualmente alle 21, quali sono le notizie principali della giornata. PM dicono che i capistazione hanno cagionato il disastro ferroviario, ma si indaga anche su un organo locale del Ministero dei Trasporti. Intanto il presidente Mattarella oggi era a Bari per rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, e il capo dell'anticorruzione Cantone accusa: la corruzione in Italia blocca le opere e le infrastrutture. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, bufera su Johnson, sindaco di Londra e adesso ministro degli esteri, su Theresa May piovono le critiche, Boris dice via dall'Unione Europea ma non usciamo dall'Europa. E poi a Roma tensione nel Movimento 5 Stelle, Roberto Lombardi lascia il mini direttorio e la sindaca Raggi dice via dallo staff, io non ne sapevo nulla, così dice ai giornalisti. Mai così dal 2005 in Italia emergenza povertà per 4,6 milioni di famiglie colpite, le famiglie numerose soprattutto. E poi per la cronaca sparò in tribunale a Milano, ergastolo per Giardiello, l'imprenditore condannato rivela la mia pistola era lì da 3 mesi. E poi Conte che al Chelsea dice si apre un nuovo capitolo, la Premier League è fantastica e naturalmente lui immaginiamo quanto possa essere contento e per il tour maglia gialla appiedata. E adesso torniamo naturalmente sul disastro ferroviario in Puglia, nelle campagne tra Andria e Corato, che ha provocato 23 morti e una cinquantina di feriti. Ci sono delle novità nell'inchiesta, però prima parliamo della visita del presidente Mattarella oggi a Bari per rendere omaggio alle vittime, per incontrare le loro famiglie. Ne parliamo con Giampaolo Balsamo della Gazzetta del Mezzogiorno, che in questi giorni buonasera, sta continuando. Roberta, buonasera, ciao. Buonasera, radioascoltatori. Ciao Giampaolo, quotidianamente ci sta aggiornando qui a Effetto Notte. Allora, partiamo appunto da questa visita di Mattarella, che ha voluto essere presente oggi a Bari, no? Sì, è stata una visita, ecco, che è durata all'incirca un paio di ore in tutto. Lui ha visitato, è stato proprio all'interno dell'Istituto di Medicina Legale, dove ha incontrato i sindaci dei comuni ai quali insomma appartengono le vittime, ha incontrato anche il procuratore aggiunto del Tribunale di Trani, poi si è soffermato anche con le famiglie delle diverse vittime. È stato, ecco, un incontro all'insegna proprio del dolore, poi si è soffermato anche su un tabellone dove c'erano proprio le fotografie delle diverse vittime. È stato un momento anche abbastanza toccante, contraddistinto dal silenzio. Ecco, c'è stato qualcuno, qualche familiare che si è avvicinato al presidente e ha chiesto giustizia. Lui ha assicurato che verrà fatta tutta la giustizia possibile in questo momento, insomma. E infatti ieri proprio alcuni familiari delle vittime, no, girava anche questo video di una giovane donna che aveva perso il padre in questo incidente, che quello che chiedeva a gran forza e con disperazione era la verità. Ma ti dico, no? Anche che c'è stata proprio la figlia, una parente di Castellano, una delle 23 vittime, che ha lanciato un appello affinché tutti i parenti proprio delle vittime costituissero un comitato per avere verità su quanto accaduto ed individuare proprio i colpevoli. A proposito dell'inchiesta, quindi, Giampaolo, no, ci sono delle novità, nel senso che è stato ufficializzato che ci sono due indagati nell'indagine, sono che sono i due capistazioni, indagati, no? Sì, sono due indagati, sono i due capistazione, lo dicevamo ieri sera, il capostazione di Corato e il capostazione di Andria. Tu hai fatto riferimento a Cantone, al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Lui ha detto che la corruzione impedisce di fare infrastrutture, praticamente questo è il messaggio lanciato proprio ad inizio, in apertura della sua relazione annuale sull'attività dell'Authority. Ha risposto subito in una conferenza stampa che ci è stata in tarda mattinata in procura tenuta dal procuratore Francesco Giannella. Lui ha detto, ecco, l'inchiesta si muoverà su 3 filoni e a tal proposito ha detto ovviamente noi accerteremo la dinamica, le responsabilità, ma anche il perché, e in risposta proprio a Cantone, il perché dei ritardi nell'ammodernamento della linea, perché si è fermato tutto dopo il raddoppio della linea da Ruvo sino a Bari. L'unico tratto in cui il binario unico, lo abbiamo più volte detto, è proprio quello dove si è verificata la tragedia. Anche se Giampaolo, come scrivono anche alcuni ascoltatori, per esempio Carla da Roma, dice trovo pittoresco come ora tutti si sono accorti che il binario a senso unico è obsoleto, ben meglio tardi che mai. Però in realtà si è capito che il problema non è esattamente non è quello, binario, ma il sistema di controllo che è veramente semmai, ecco, arretrato, no? Quello di chiamarsi per telefono. Certo, è da chiarire semmai perché se soldi erano stati stanziati non erano stati effettuati questi lavori, ma assolutamente non è il binario unico la causa della tragedia, indubbiamente. Si è parlato delle responsabilità dei capistazione, ma sicuramente è un concatenamento di errori. Il disastro potrebbe sicuramente nascondere una serie di responsabilità plurime. Infatti questo. Si parla, Giampaolo, di accertamenti anche su un organo periferico del Ministero. No? Certo, perché chi doveva controllare tutto il l'ambaradan messo in atto proprio dai soldi europei, perché sono stati bloccati, perché non sono stati effettuati questi lavori. Quindi penso che alla fine l'inchiesta partirà sicuramente da quello che ha causato la tragedia, sicuramente c'è un errore umano, però l'inchiesta, come diceva lo stesso procuratore Giannella, si estenderà e prenderà più filoni. Grazie Giampaolo Balsamo, Gazzetta grazie del Mezzogiorno. A te, grazie a voi. E continua col tuo buon lavoro. E adesso l'Europa. Europa 24 notte. Spazio europeo che è proprio dedicato a questo tema, perché dopo lo scontro frontale tra i treni in Puglia e il ritardo sulla realizzazione, come si diceva, dei lavori sulla linea ferroviaria finanziati da fondi europei, facciamo il punto su quella che è la sicurezza ferroviaria europea. La sicurezza e il traffico ferroviario europeo hanno come orizzonte il Single European Rail Space, e cioè lo spazio unico europeo che la Commissione vuole completare entro il 2050. In avvicinamento a questo progetto ci sono diverse verifiche dei sistemi europei di segnalamento ferroviario. Da poco il sistema satellitare ERSAT ha superato a pieni voti il giudizio degli esperti europei di segnalamento ferroviario. Il nuovo sistema, la cui omologazione è in corso, in futuro sarà utilizzato per controllare e gestire in sicurezza il traffico ferroviario sulle linee convenzionali secondarie, locali e regionali. Gli specialisti delle maggiori società ferroviarie che utilizzano come rete ferroviaria italiana il sistema di segnalamento European Rail Traffic Management System per il distanziamento in sicurezza dei treni hanno infatti verificato e apprezzato le potenzialità operative e gestionali di ERSAT, localizzazione del treno attraverso la tecnologia satellitare, cioè boe virtuali, e uno scambio di informazioni terra-treno via internet protocol utilizzando la rete pubblica GSM. Ci spiega perché e come questo sistema ERSAT si adegua agli standard europei Fabio Senesi, direttore tecnico di RFI ed esperto dei sistemi tecnologici e dei programmi di gestione del traffico ferroviario. Il sistema europeo che oggi è quello obbligatorio su tutte le linee nuove, si chiama European Railway Traffic Management System, che è previsto dalle direttive europee, dagli standard tecnici di interoperabilità. Noi in Italia l'abbiamo realizzato nel 2005, siamo stati i primi al mondo a farlo, abbiamo mandato i treni via radio utilizzando il GSMR e l'abbiamo applicato su tutte le linee alta velocità. Dopodiché si presta anche ad essere scalato sulle linee a basso traffico o addirittura per aumentare la capacità dei nodi. Il sistema satellitare ERSAT, che sì, ha superato a pieni voti il giudizio degli esperti europei per il sì, segnalamento ferroviario, che cosa prevede? Permette anche di essere applicato sulle linee cosiddette regionali, perché essendo tutto via radio può essere, diciamo, un ottimo ritorno di investimento per eliminare diciamo infrastruttura sulle linee ed avere un costo di esercizio molto basso. La sperimentazione che stiamo facendo, anche questa è, diciamo, siamo una punta di diamante in Europa, è quella di utilizzare il concetto di virtual balise, cioè oggi noi abbiamo delle boe, sono dei transponder sul binario che dicono al treno dove sta localizzato. Queste boe possono essere sostituite attraverso, diciamo, la localizzazione satellitare, e questa è la sperimentazione che stiamo facendo in Sardegna fra Cagliari e Decimomannu, e adesso passa la palla al mondo autorizzativo certificativo, perché devi rispettare ovviamente gli standard europei, non bastano quelli italiani, quindi ecco perché c'è un particolare attenzione anche da parte dell'ERA, che è l'Agenzia Europea delle Ferrovie, che sta vedendo questo progetto con un'apripista. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E prima della prossima piccola pausa vorrei ancora dare spazio ai vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Daniele, sulle polemiche relative ai funerali di Provenzano, dice: se credi in Dio devi ancora accettare che un assassino come Provenzano possa essere perdonato dalla giustizia divina, ma solo da quella. Questo è Daniele da Lecce. Poi ci sono due messaggi sul Movimento 5 Stelle, su questa defezione di Roberta Lombardi dal mini direttorio di Roma. C'è Francesco da Roma che scrive: tra Raggi e Lombardi non ci sono contrasti, direi piuttosto che sono stati nascosti sotto il tappeto, perché il Movimento 5 Stelle deve sembrare compatto e perfetto, diversamente dagli altri partiti. Perciò i loro scheletri vanno ben sigillati nell'armadio, scrive Francesco. Mentre un altro messaggio, c'è una firma, dice: il Movimento 5 Stelle è elastico, non è un poltronificio dove le cariche sono statiche. Ora la Lombardi si dedicherà appieno al raduno nazionale. Se non ci fosse bisogno della sua collaborazione a Roma, c'è un vantaggio, è un vantaggio, non una chiave polemica, dice questo ascoltatrice o ascoltatore. Poi Giuseppina invece sulla questione di Provenzano, di cui parleremo tra poco, dice: ma che coraggioso questo questore che combatte i mafiosi morti, non sarà che combatte i morti perché è impotente contro i mafiosi vivi? A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi latitudine state ascoltando Effetto Notte. I vostri messaggi arrivano, anche questi da qualsiasi luogo, al 349-238-6666, che è la pagina, che è il numero per i WhatsApp e gli SMS, mentre c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte sulla quale potete scrivere le vostre riflessioni. Adesso procediamo con gli altri argomenti, con gli approfondimenti degli altri temi, dopo il riassunto della giornata e dopo aver parlato delle novità sull'inchiesta relativa al disastro ferroviario in Puglia e anche alla visita di Mattarella che ha incontrato i familiari. Adesso vi dicevo passeremo a un altro argomento, però volevo ancora dare spazio ai vostri messaggi. Per esempio scrive Raffaele: mi stupisco che in Italia ci si stupisca ancora che siamo arretrati su alcune tratte ferroviarie e che servano morti per cambiare. Vi ricordo la nave Concordia che ha vietato l'inchino, vi ricordo il CERMIS che ha vietato i voli militari, vi ricordo la strage di Linate che ha obbligato i radar a terra. E purtroppo non ha tutti i torti Raffaele. Poi altri messaggi che leggerò dopo, intanto vi ricordo, se non avete sentito le notizie principali, sono queste. Il disastro ferroviario in Puglia, il presidente Mattarella a Bari rende omaggio alle vittime, incontra i familiari, intanto sono indagati due capistazione. Parlare di errore umano è corretto ma riduttivo, dice il procuratore di Trani, infatti ci sono degli accertamenti anche su un organo periferico del Ministero. Il capo dell'anticorruzione Cantone accusa: anche la corruzione impedisce in Italia di fare le infrastrutture. La morte di Provenzano, il boss verrà cremato, polemica sui funerali, niente corteo, dice il questore. Movimento 5 Stelle a Roma, Roberta Lombardi lascia il mini direttorio, gelo della sindaca Raggi che dice: via dallo staff, io non ne so nulla. Emergenza povertà, ne parleremo tra pochissimo, mai così alta dal 2005 in Italia. E poi per la cronaca, sparò in tribunale a Milano, ergastolo per Giardiello, l'imprenditore condannato rivela la pistola era lì da 3 mesi. E per quanto riguarda invece il ciclismo, tour dei colpi di scena, Froome cade, resta a piedi ma non perde la maglia gialla. E per il nuoto agli europei, Martina Grimaldi conquista l'oro nella 25 chilometri. Dicevamo quindi l'emergenza povertà in Italia. Secondo i dati Istat, nel 2015 le famiglie in povertà assoluta sono state 1.582.000. In termini di persone ha raggiunto quindi la cifra di 4.598.000, il numero questo più alto delle persone in povertà assoluta dal 2005 a oggi. La condizione di povertà assoluta è in aumento al nord, in particolare per quanto riguarda gli stranieri. La povertà colpisce le famiglie numerose chi vive in città e molti, molto più giovani accanto anche agli anziani. Bisogna dire, c'è questa per esempio segnalazione dell'organizzazione Action Aid Italia che dice che a pagarne il prezzo di queste disuguaglianze più alto sono le donne, sono 2.277.000 quelle che vivono in condizioni di indigenza, più numerose in termini assoluti di minori, giovani e anziani. Insomma, questo rapporto Istat, chiedo al professor Stefano Zamagni, docente di economia civile e sistemi di welfare all'Università di Bologna. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a tutti voi. Dicevo che questo rapporto Istat sulla povertà dimostra quindi che sono ancora troppe le disuguaglianze che affliggono il nostro paese, professore. Il dato che l'Istat ha pubblicato non giunge ovviamente inatteso, gli addetti ai lavori sapevano, va detto che si tratta di un dato semplicemente scandaloso, perché questo è accaduto in una fase storica nella quale il reddito complessivo e la ricchezza sono aumentate, quindi anche nel passato c'era la povertà assoluta, ma questa era dovuta a quelli che gli economisti chiamano fallimenti della produzione, perché o non c'erano risorse, non si sapeva come fare per produrre. Oggi non è così, quindi non possiamo limitarci soltanto ai numeri, che già di per sé devono scuotere le menti, soprattutto i cuori, ma capire che è diversa la causa generatrice della povertà assoluta. Questa è dovuta sostanzialmente al fatto che in Italia non si vuol prendere in seria considerazione il tema dell'inclusione economica. Prevale cioè ancora un approccio redistribuzionista, cioè si dice in presenza di questo o quell'altro fenomeno dobbiamo redistribuire, stringere la cintura un po' tutti. Questo è il vecchio approccio che non può che aggravare la situazione, perché l'unica forma per combattere la povertà assoluta e l'inclusione economica nel mercato del lavoro, cioè bisogna far lavorare la gente, ma il lavoro non è come una miniera in cui un scava e tira fuori. Infatti. Questa è la concezione petrolifera, si dice, ma va creato. Ma per crearlo bisogna prima di tutto volerlo fare, secondo rimboccarsi le maniche e smetterla di riproporre misure che nel breve termine sortiranno e sortiscono un certo effetto, ma non certamente nel medio e lungo termine. Eppure ancora troppo dominante nella nostra cultura, o meglio dire sottocultura, l'idea secondo cui bisogna cercare il lavoro. Ma no, io vado a cercare una risorsa che è sotterrata. Qui il lavoro non è un dato di natura, va creato dagli uomini che vivono in società, e su questo oggi sapremmo come fare. Bisognerebbe però che ci fosse la cosiddetta volontà politica, che lasciasse spazio a coloro i quali hanno idee, ma soprattutto progetti immediatamente realizzabili e che invece non vengono realizzate. In questo senso la misura recentissima, il provvedimento recentissimo che introduce la misura universale di contrasto alla povertà va nella direzione giusta. Professore, mi scusi, allora la interrompo qui, perché appunto aggiornando gli ascoltatori diciamo che la Camera ha approvato proprio oggi il disegno di legge del governo che introduce quella che si dice una misura nazionale di carattere universale per il contrasto alla povertà, denominata reddito di inclusione, che non è il reddito minimo, quello per esempio chiesto dal Movimento 5 Stelle, il reddito diverso, di cittadinanza, non è. Dobbiamo sapere che questi concetti, reddito minimo, reddito di inclusione e altre espressioni, sono qualitativamente diversi. Quando si parla di reddito di inclusione sociale vuol dire delle risorse che vengono offerte a chi il lavoro non l'ha mai avuto o l'ha perso, la possibilità concreta di reinventarsi attraverso schemi adeguati il lavoro. Ecco perché si chiama di inclusione, perché ripeto, la via maestra per combattere la povertà non è la redistribuzione, è la creazione di lavoro, e qui, perché se io do a tutto il lavoro sicuramente quello non può essere povero assoluto, potrà essere povero in senso relativo, ma non in senso assoluto. 4 milioni e 600 mila in un paese come l'Italia nell'anno di grazia 2016 è una vergogna, perché noi sapremmo, noi italiani, come fare per, però non lo si può fare. Ora, questo provvedimento di quest'oggi al Parlamento va, muove un primo passo, certo è solo il primo passo, perché bisogna adesso rimboccarsi le maniche per trovare i modi di inventare e creare di nuovo nuovi settori produttivi. Non basta dire cerchiamo di ridurre un po' di orario a tutti così tutti lavorano, ma questa è la logica appunto redistribuzionista. Dobbiamo avere il coraggio, ovviamente assistiti da politiche e interventi delle autorità competenti o governativo regionale a seconda dei casi, perché questo possa avvenire. In tutto questo è evidente che una richiesta ineluttabile è la modifica della burocrazia, perché la nostra burocrazia, non tanto dei burocrati, ma delle regole, quelli che hanno scritto le regole di funzionamento della burocrazia, che impediscono l'innovazione sociale. Questo è dimostrabile, non è un'affermazione. Se io avessi tempo racconterei migliaia di casi, legge per legge, regolamento per regolamento, che fanno questo. Cioè a dire, sì, la burocrazia è oggi il fattore maggiore di disturbo perché è un fattore di conservazione dell'esistente. Ma siccome abbiamo detto che bisogna creare nuovi linee produttive e aprire nuovi settori produttivi, pensiamo soltanto al settore dei beni ambientali, dei beni culturali o dei beni relazionali, di cui la gente italiana farebbe una domanda enorme, ma non la si vuole, perché? Perché i provvedimenti e la struttura burocratica non consente, se non in tempi lunghissimi, quando ormai i treni sono già passati. A proposito di treni, ecco, professore, appunto diceva oggi Cantone che la corruzione impedisce che si, esatto, che si operino, esatto, le infrastrutture in Italia, ragione, ma è una zavorra anche, giustamente, come le ricordava la burocrazia. Ecco, lui di zavorra, potuto, se avesse avuto più tempo avrebbe completato, perché l'ho sentito in altre circostanze, dire che la corruzione, a sua volta, la corruzione dipende da un modello burocratico. Perché la gente corrompe? Perché un'impresa, un cittadino corrompe? Perché evidentemente non riesce ad ottenere per vie normali, in tempi rapidi, quello che serve alla bisogno. Allora anche si ricorre, se non sempre così, non è il solo motivo perché si corrompe, però sicuramente a volte si vogliono velocizzare le strade. Ma le opere pubbliche, ma il caso della tragedia di Bari, della Puglia, va in quella direzione, perché i soldi per fare mettere gli impianti moderni, ultramoderni sulla linea, a prescindere dal secondo binario, c'erano già da anni. Infatti, e allora bisogna colpevolizzare quelli che hanno ritardato per 7 anni l'utilizzo di fondi che erano già stati stanziati. Grazie professor Stefano Zamagni, grazie del suo intervento. Grazie a voi, buon lavoro. Buona serata e buon lavoro. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, i vostri messaggi che arrivano sui vari temi al 349-238-6666, numero per WhatsApp, per SMS, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E sul tema che abbiamo appena trattato col professor Zamagni dell'Università di Bologna, quindi questi dati sulla povertà assoluta in Italia, quasi 5 milioni di persone. E stavo vedendo un messaggio che chiedeva che cosa si intende per povertà assoluta. Vado a rivedere la spiegazione che dall'Istat: persone che hanno difficoltà a conseguire uno standard di vita minimamente accettabile non accedono a beni e servizi che nel contesto italiano vengono considerati essenziali. Questa è la definizione di povertà assoluta. Poi dice, per esempio, Luca scrive: ricordo a tutti che abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, e in effetti anche questo è vero. E poi dice un altro messaggio: viviamo in tempi oscuri, in tempi dove anche un'ideologia politica, niente, se è passato al prossimo WhatsApp, l'ho perso da qualche parte, insomma, continuano a susseguirsi. Poi vedo ancora altri messaggi invece su la vicenda di Provenzano, di cui parleremo tra pochissimo. Per esempio Silvana da Sestri Levante scrive: ciao Roberta, solo Dio potrà perdonare costui, io proibirei per legge preghiera per un mostro del genere. Intanto, prima di passare appunto al prossimo argomento, vi ricordo quali sono i temi principali della giornata. I PM dicono che i capistazione hanno cagionato il disastro ferroviario in Puglia. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella è andato a Bari a rendere omaggio alle vittime, a incontrare le loro famiglie, e il capo dell'anticorruzione Cantone accusa la corruzione blocca le opere e le infrastrutture in Italia. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, bufera su Boris Johnson, nuovo ministro degli esteri, e la bufera si cade soprattutto sulla prima ministra Theresa May. Piovono su di lei critiche e Boris dice, specifica, noi però andiamo via dall'Unione Europea ma non dall'Europa. E poi la tensione a Roma, perché Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle lascia il mini direttorio e la sindaca di Roma Virginia Raggi, intervistata dai giornalisti, dice: via dallo staff la Lombardi, io non ne so nulla. Battaglia su RCS entra nel vivo, Bonomi oltre la soglia del 30%, l'OPS di Cairo grazie ai fondi Schroeder raggiunge il 22%. E poi abbiamo appena parlato dell'emergenza povertà in Italia, mai così alta dal 2005. In povertà assoluta sono 4,6 milioni di persone colpite, le famiglie più numerose soprattutto. Per la cronaca, sparò in tribunale a Milano, ergastolo per l'imprenditore Giardiello, che rivela: la mia pistola era lì in tribunale da 3 mesi. E poi Conte al Chelsea, che dice: questo è un nuovo capitolo della mia vita e la Premier League è fantastica. Quindi dicevamo che ieri una delle notizie in primissimo piano era senz'altro la morte di Bernardo Provenzano, il capo dei capi di Cosa Nostra, che se n'è andato a 83 anni, era in carcere da 10 anni dopo ben 43 anni di latitanza. Il questore di Palermo, Guido Longo, già da ieri ha disposto che vengano vietati i funerali per il boss e dice: la decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, come già avvenuto in passato per altri casi analoghi. I familiari del capomafia, ha spiegato il questore, potranno accompagnare in forma privata la salma del congiunto nel cimitero di Corleone, ma senza che si svolga la cerimonia funebre in chiesa. Ne ha parlato, su questo è intervenuta anche la sindaca di Corleone, che è Leoluchina Savona. Oggi a 24 mattino sentiamo un passaggio. Non è degno di avere dei funerali aperti al pubblico. Addirittura queste storie criminali dovrebbero essere concluse, secondo me, all'interno dello stesso carcere e nei luoghi dove appunto sono stati. Cioè non dovrebbe essere sepolto neanche a Corleone. Neanche a Corleone. Quindi funerali religiosi vietati, però Monsignor Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale, ha detto: il cappellano del cimitero di Corleone o un altro sacerdote benedirà il feretro, ci sarà un momento di preghiera. Dice: Provenzano ha subito la giustizia umana, non so se in punto di morte o se prima durante la detenzione si sia confessato o pentito davanti a Dio, però dice in punto di morte tutti i peccatori possono essere perdonati. Ne parliamo con Riccardo Arena, cronista del Giornale di Sicilia. Buonasera Riccardo. Buonasera a te e agli ascoltatori. Quindi che situazione c'è in questo momento a Corleone? Guarda, se dobbiamo affidarci a servizi televisivi un po' stereotipati, la gente non risponde, dice che Provenzano è una brava persona, oppure dice che di non sapere nulla. Se dobbiamo invece guardare a una realtà diversa, dobbiamo dire che intanto i familiari si sono resi conto della situazione e hanno deciso di cremare la salma. Che è la prima volta che succede, no? Nella storia della mafia, dei mafiosi. Diciamo che sì, non ci sono molti precedenti, anche perché insomma nella cultura siciliana la cremazione non è ancora entrata a pieno, e soprattutto nella cultura retriva della mafia. Ma qui il problema è che si sono resi conto loro stessi che questa presenza della salma di Provenzano a Corleone potrebbe essere pure ingombrante, per questo già la cremazione è una scelta precisa. Poi hanno pure detto che non si sa se porteranno le ceneri in paese oppure se le porteranno altrove, questa sarà una loro scelta. Quindi la tensione, diciamo, legata alla figura di Provenzano è riconosciuta, ammessa dalla stessa famiglia, che ha un comportamento diverso da quella di molte altre famiglie di mafia, soprattutto quella di Salvatore Riina. Grazie Riccardo Arena del Giornale di Sicilia, qui dobbiamo proprio chiudere. Grazie Riccardo, buon lavoro. Noi ci riaggiorniamo alle 22:00.